La ilaha illallah il malik il jabbar. Non c'è divinità tranne Allah, il re, il jabbar. La ilaha illallah il wahid il qahhar. Non c'è divinità tranne Allah, l'unico, il qahhar. La ilaha illallah il aziz il ghaffar. Non c'è divinità tranne Allah, il possente, il Ghaffar. La ilaha illallah, il karimu sattar. Non c'è divinità tranne Allah, il generoso, il sattar. La ilaha illallah, il kabiru il muta'al. Non c'è divinità tranne Allah, il grande, il muta'al. La ilaha illallah, khalikul layli wan nahar. Non c'è divinità tranne Allah, creatore della notte e del giorno.